La vendi Fusaro a Sassari, la riconosci? Sì, sì, sì, cos'è una 5 ottavi quella? No, non è una 5 ottavi. È alta 5 metri, alta, è mezz'onda. Le cucine. Ma qua, tipo quella che ha fatto vedere a noi? Ma senza radiali, Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Già funzionava. A chi ne aveva un'altra navia Edu, mi sembra che c'aveva otto radiali, a può essere. Quella lì è la sella, Olivara, la sella che ce l'ho io. Parlem. Ah, ce l'hai tu quella lì, funziona bene. La sto usando io la stella, Olivara, la sto usando io in questo momento, otto radiali, la stella. C'è una bobina caricata e con il rivestimento trasparente, capito? Vedi la bobina proprio, bella grossa. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, quella lì è. Siccome siamo andati a vederla, solo che ormai avevamo già comprato altro e quindi niente. E a livello come rumori, com'è? Ma no, guarda, io sono più ottavo, va benissimo. Sì, un po' di correndo ogni tanto, quando io sono vicino e c'è la piscina, quando attacca il motore il robotto, ma lo sento qua, come rumore. Dunque, un po' di rumore prendo, ma non molto comunque, non molto, ne vado. Comunque, con questa antenna che ha cambiato, mi arrivi quasi 9-18 più a casa, 9-18. Bene, scusate l'introduzione che io sto ascoltando e sto lavorando qui. Bene, va di rara con l'XM, dai. Sì, sì, sì, certo, quando è riprende non c'è nessun problema. Appa, io avevo visto la Superlem, avevo visto da Fusaro. Costa 160 euro che c'è antenna. Sì, sì, sì, ne avevo una che cucciava Burumbe. Non me lo ricordo perché ce l'ha fatta vedere, ci ha aperto il cartone, cioè la volevo vedere com'era, che purtroppo sono di Gozzi, che prima di comprare dai DVD, inutile stare in giro a girarla, uno dice, vabbè, ma se la vede è meglio anche per vedere come, invece poi quando ti arriva, perché ripeto è successo anche a me, è arrivata da voi, non l'hai vista e mi ha rotto anche le balle alla fine di tutto, no? Perché quando vuoi una cosa, vuoi chissà e basta, però vabbè, bisogna pure accontentarsi e ciccia. E là invece gliel'abbiamo chiesto, la verità, ci ha aperto il cartone, ce l'ha fatta vedere ed era, dai, una buona antenna, chissà. Io so che qualcuno a Sassa l'ha montata e va benissimo. Quella che ha quattro radiali è tipo la Mantova 1. Io gioco che anni passati, che tu l'ha piazzata e pompava burro. Un attimo di bianco per me che mi è arrivata gente. Ok. Eia. No, oggi lo sai cos'è, il problema vanno è che loro dicono metti radiali, mica avere più radiali non è che sia tutto quanto che si vantaggio, mi avviene di tutto, perché qui si prende tutti i rumori, correme, eccetera, eccetera. L'aria poi, ripeto, è anche sporca, inutile che in giro di cutia fa ognuno di ghiaghi di cui sbagli via, è così, apparecchio o non apparecchio, filtro o non filtro, grande è brutto e basta. Se no devi stare sempre lì a attenuare, a regolare, uno senti e l'altro no. E quindi bisogna, secondo me, avere un'antenna adeguata a questa cosa, che sarà un po' difficile, però l'unico sistema e la soluzione è solo quella. Sì, sì, hai ragione. Un po' di voce fa di più bello che mare, me. Però boh, sarò fissato io, ma le antenne con le fatte in alluminio sono migliori, so. A me che antenne che hanno inventato avanti fibra di vetro, beh, non lo so, sarò fissato, ma non mi vanno tanto bene. No, ma magari vanno, non mi hai capito, magari vanno bene per tutto lo sporco che c'è, magari vanno bene quelle in resina, non mi hai capito. A chi in alluminio, beh, ci mancherebbe altro, io penso che da quando sono usciti le prime antenne che hanno in vattura, la Firenze 2 e la Mantova 1, io secondo me erano i migliori in assoluto, una cosa che hanno venduto, boh, ma numero non si sa tanto, perché c'erano tutti, e mai nessuno si è lamentato. E sempre con la Mantova 1, con quattro radiali, io ce l'ho avuta e secondo me è una cannonata, un'antenna che si briccava pure fuori dalla frequenza di lavoro, accordava, poi devi mettere appresso a tutto il sistema il casino che c'è nell'aria, quindi se un'antenna non la vedi devi per forza di giamba un'altra, perché ripeto, adesso lui ha detto che quando attaccano il motore della piscina, cazzo, gli va a fare il rumore lì, capito? Ha una rottura di balle in mica situazioni, non è che anche se loro dovrebbero lavorare con un filtro in ghivi e ghivi già va il ghivito e va a attaccare la 220 per togliere tutto quanto di cose, ma non lo usa nessuno, che anche si molto picchi, si cose che trattano, cazzo, vado in un casino della Madonna e se porta presso poi tutto il ricevitore, è così, non è di la bucaglia che vede l'aria, dimmo, dai, se la riceve, e quindi devi cercare di trovare un'antenna buona dovuta a questo problema che c'è. E non è facile, perché quando vai a chiedere un paio di informazioni, chi deve vendere ti dice, dai, buoni, chi c'ha che già è a posto, la prova non andava, la prova è un'altra, più che mai, è tutto quanto un casino. Lì l'unica cosa, se c'hai un negozio a disposizione dove te la metti sul banco, ti leggi la caratteristica, la decisione riesci a prenderla, magari si piglia buco da internet e così così, che tu chiami, quello non è che ti consiglia più di tanto, dici guarda metti questa, una buona antenna, ce l'hanno tutti, l'hanno comprato, la bambina abili mette stessa a me, e abili non si va nulla, alla fine si proprio così. Non le puoi durare a mano, la puoi durare in bucciano, la puoi durare in andareddu, a chiedi di dirmi, te la cambio, difetto c'ha, no, e allora andrà bene. Non lo so, guia, la devi dire tu, cosa fai? Ma non è che vada male neanche, quant'è alta che c'è antenna? No, più o meno sarà 5 metri e mezzo, ma non me la metto a quanto era di altezza. Ripeto, loro l'hanno per essere buono una 5 ottavi, secondo me non è così pura grilla, va tra radiali. La Silt era buona, la Silt 2000, quella oro, quella lì c'era una buona antenna, che via prima Claudio vista e si trovava bene, anche molto robusta, c'ha la carica lì che la vedevi, eccetera eccetera, ma di quelle lì non ne vendono più, non si ne agattano più, chi ce l'ha che te la vende a seconda mano te la fa anche pagare, non è che te la regala, chissà. È una buona antenna, ci mancherebbe altro. Se vuoi ti aggiungere la Duvista, ma non mani mandato Duvista, capito? Non ne mandato un'altra. E arrivi da lavoro, ma normalmente se arrivi dalla Germania, il cazzo arrivi da. Una volta che tu tagli l'ugaccione nella buca, la vedi a casa Egitto, ma porca miseria. Allora cosa succede? La devi rimandare indietro, magari della beggi il buccino e peggio brusa che sa, la Egitto, vabbè, è andata così e ciccia. Non è che. Però se magari chiami a loro ti diranno no, mettila che già va bene, invece non è così, non è che va bene come va bene la Mantova, insomma, no. Quella che sta andando bene qua a Sassare, cioè che l'hanno provata un po' di gente, la Energy della Midland 5 ottavi, azzo chi sono accannonata, chi sa bombame. Davvero? No, non l'ho mai vista, no. No, mai vista, la verità è mai vista. Cavolo! Pompa, la Energy. Vira un amico, c'è. Vira ne BD1 a Sassari. Cazzo! Pompa un bel. La fa la Midland, la fa. Ma ti sto dicendo che sono tutti soddisfatti, Che c'è Energy, funziona, che è una meraviglia, funziona. Ma 5 ottavi grande, antenna grande o piccola? Manna, 5 ottavi. Tu vai su internet e la guardi, Energy, 5 ottavi. Ah, sto bomba che è una cannonata, bomba. Dirane un poco di niente a Sassari, ma... Uia. Bomba. No, non mi è mai capitato, vabbè che non ho mai tempo di nulla, porca miseria, cazzo, in altre occasioni magari riuscivo più a stare a perdere un po' più di tempo a cercarle queste cose qua, ma quando tempo non hai e basta, non ti stai in ghivi, l'unica cosa che agatti che da mezz'oretta è giusto, infatti è giusto, si riesce a sistemarli, che cose, giusto a scambiare quattro parole. Però prima c'era più tempo, capito, anche perché ritrovavi queste cose, e in realtà c'è tempo non andava da te, aveva pulsiandi, non anni a fatti la vedere, a chi che veniva queste cose era la GBC, così è, ma mi pare che non faccia più nulla. Sì, proprio in chi ve l'hanno comparata, Costa, a che costa 90 euro? Costa, però chi ce l'ha è soddisfattissimo, va bene. Proprio. È l'alternativa alla Mantova, chi la Mantova non la fa nei Biumi, capirà se la fa in Bagombe di Dinà. E mi dì, Mantova a 400 euro burro, la so vendente. Sì. Quello che ho detto prima io, oggi con le antenne lì, se le fanno pagare il doppio di quanto di canto cucciava prima. Non venite da là e capirate la cosa in pagare così. Anche perché è un'antenna molto, molto, molto robusta, la Mantova quando è fuscia vecchia, accordata bene, bella, e io non ho mai ho avuto un problema. L'unica cosa che inghivi poi quando non l'ho più usata, la verità l'avevo staccata, l'avevo guardata a Banitalia eccetera, tante cose, anche perché si era rovinato il palo dove era, eh. La giubbo centena me l'ha domandata e la giù regalata proprio, non è che la giù venduta, ha detto vabbè tanto io ancora non mi bongo eccetera, mi sono attaccati, mi ha detto vabbè top. La giubilata deve aiutare, deve la giurare. È stato un errore grande, una Mantova 5. Ed è stato un errore grande. L'ho potuto prendere qua. Un radiale vera per appena mullato, ma la tenere da burbona, da pulire e rimettere, insomma, do. E poi niente, dicevo con la ghiscia va, ghiscia turbo, ci trova bene, faccio buon ghiscia. E tratto ghiscia da bui, che non sarà strada facendo, vediamo, non va la dura un po'. Sì, che dura, già funziona bene, dura, voglia che si dura, un bel danno verrà, e mi pare che era già pure vista a Porto d'Orra, se non mi ricordo male. No, vista no, vista verrà già portata da Borgo, ci sarà, non ci sarà, boh, 5 mesi, più o meno, da quando da voi avevi cominciato tutto quanto, visto un casino, dai. Più o meno, proprio lì, perché non mi ricordavo neanche di averla, ed è palissimo che sia stato un po' di errore a comparare un'altra che avevo preso da Lucca, che era lo stesso da sistemare e fare, e da voi invece c'è un Luisa, e vabbè, va se la bongo e tra tu Luisa, da voi vediamo. Però poi quando ho più tempo che le sistemo bene me le provo, quella che tiene me le tengo due, non abbaccio la lascia, tanto non è che la già piccata in altra uga, buono di ordine vai, vabbè lascia, tanto cosa te ne frega. Fai. Tanto gliela inchipirai, e cosa ti fai? Ti fa di nulla. No, già va bene, già, cavolo. No, io ripeto, chi camerani. Mirani data, Mirani, era nuova e scatto, cioè, durante la busta. Ma ho detto, non ne posso nulla, bomba, che ci arringo. Ma cos'era via pure in magazzino, la via a casa di papà, per ragione. Ah, c'è un piazzata, raggio, ma fateci un po' credo la ganna a taralla, aggiungare a dove, nel 40 appena preso, ma non me ne ha fatti nulla. Ah, sono una gannunata, funziona per davvero. No, ma già va bene, io continuo a dirlo, interessante, vabbè, da lui cosa interessa di tutti gli altri queste cose? Interessante che uno ci arrivi, che parli, che ti senta, poi una va rilassa, no? Ehi, cazzo, che siamo, anche se no deve entrare una delle competizioni, ma deve vedere un mediato oppure un apparecchio, ma stiamo scherzando, se va nulla. Cioè, interessante, c'è una buona antenna che non dia problemi all'apparecchio, perché quando sono accordate bene, giustamente, dati mattana in finale, a chi inghivi i caldi, eccetera. Ma quando è a posto, che tu quanto è a posto, tu quanto funziona, un bel microfono, cosa ne frega? Uno arrivi, accendi, schiacci, ti fa ragionare, chi sei importante? A voglia. A voglia, oggi la verità, sono contento, sono la verità. Sono un bel contento. Hai sbagliato? No, è ancora che andrebbero vendere altro. Ma poco, ma ti ho pigliato un alimentatore da reginese, di questi switching. Gli andava a 30 ampere, non so cosa l'ha mai visto. Davvero? A chi lo venderebbero reginese alimentatori? Ehi, all'ani in Sassari, da muraglia. L'ani. In chipe, a Pradania, da vicino, un di vera uscia, da retto. Da retto, un di... guardia, non dire che se non deve la rettifica. No, un deve ci salpa, lo sai un deve ci salpa, c'è Ushan. Ah, la capana, la mano ne ha fatto un conato. Sì, sì, mi sento. L'ha detto Vittorio Cinesi, però la faccio, l'ha detto, perché non ci salpa. Chi me l'ha giocato? Poi si chiama, chi tu che vende, vabbè, mobile, tanta questa roba di cose. Vizzino ben chipe. Beh Ushan, vero la paggio, ci salva. Chi ridare dove c'è di cinesi, quel cristo muraglia, ha giubilato in chipe. Un di bel mondo a convenienza, a me. Compreso hai. Raggio pigliato in chiave, però te lo devi arrangiare, compreso là, se lo vedo dell'alimentazione te lo devi piazzare. Da poi beh, più meno, è bellino . E non faccio un contatto d'olio, se no te l'abbiamo mandato via WhatsApp, te l'abbiamo fatto vedere. Comente. Ah, sta pompa me. 30 ampere va. Cavolo, adesso che non lo sapevo che dipende da niente che si gode. La stavolta a me che la mia vedendo con Claudio. Infatti stiamo vedendo un po' di pregi, cazzo, non li mettono di buono, te lo fanno pagare, è un bel puro. 21 euro l'ho pagato, 30 ampere. Che cavolo, 21 euro non hai pagato nulla, cazzo 30 ampere costami, di astra macca. Switching, lo so così zendi. Non faccio un contatto d'olio, sennò te l'abbia fatto vedere pure la cattura. Te lo devi arrangiare, devi comparare un virus alimentarlo, devi comparare. E poi viso, siccome c'ha più attacchi, devi abbaidare più meno, tutte le stesse cose, viso. No, è puro si capiteggia, no, si capiteggia in che vivo basso . E lo voglio vedere, cioè, e chi no, a pure se non vai lo filo, lui è vero buoni. No, ma sai una cosa, pure, fa meglio, no, è tinillo uno, non si sa mai, un bel di voce che ci cosi, mai dire mai, no, come te, che uno dice, ma a me non mi serve, e vabbè, non si sa mai. Oppure si vi, si coscia così poco, si può pigliare, certo. Curami, è l'alimentazione, da voi la massa già si conosce. Da voi è più e poi c'è meno per attaccare gli apparecchi. Capito? E chi vi vizzino un divisore di Baufeng, lo conosci il apparecchio? Che va in V e U gli apparecchi lì. E chi vi vizzino è? L'hanno in chi vi danno? E tu appena che mi capite già vengono la barica. Cappa, te lo gioco di zende. Funzionava, anzi non ero mutolente con ghiso. Va via pure la gigetta attaccato, va via l'affare, l'amplificatore. E c'è andato bene, lo buccia bene il B150. Se pongo pure un B300 non rifazzi nulla. No, non rifazzi. È che bisogna seguire i cosi, bisogna seguire a chi fa lo sportellino, va. Bisogna seguire i fitti, come mi sono messi. Capito? E poi c'è NL che è l'alimentazione. Da voi è più e poi è meno che chi vi bisogna attaccare a massa. Vabbè già lo sai. Sì. Chi vuoi che c'ho bruscio? Bruscio? Ma io non so come dire. È entrato che c'ho bruscio, è entrato. No, prova, ma non è bruscio, non c'ho niente. No, vabbè, forse sarà stata un'occasione così. Cappa, sono lunghi, è ventilato, sono switching, sono minorete. Capito? Cioè, non è come un alimentatore di una volta, no? Sono switching. Non so cosa l'hai mai intese. Ma ecco. Fate il break. Ciao Antonio, tu non so che ti stai parlando, allora, buongiorno. Ehi, buongiorno Antonello. Antonello da Buccio d'Orra. Ma ok, ciao Antonio, buongiorno, ben ascoltato. Vabbè, sì, anch'io ce l'ho uno di quelli da 30, così come dici tu. Ha giù pagato poco, 21 euro. Funziona per me. Cosa mi ha fatto? Non andava bene. Io voglio andare bene, ci sono anche da 50 ampere. Ok, vai Antonello. Ehi, ciao. Sì, no, non sai che non mi è mai capitato di... Non lo sappiamo, vedi, non lo sappiamo, che rivendiamo di cinese, che stavolta con Claudio e Maro Smendi, e niente, però non lo sappiamo proprio che è di Veraviani. se ce l'ha che va bene, come mi stai dicendo, no, non comprami il dengo, cosa me ne frega, tanto non è, ce l'hanno in peso, questa è stata una cosa, gli rabbaghi un pacco di denaro e la guida di fermo, sì, ma 21 euro, anche se sono 25 o sono 30, non è nulla, non è un dengo, se ne hai bisogno attacchi. Beh certo, certo, poi io gli ho fatto il caso con Bussantino per spegnere la cena, perché sennò lo devi stare sempre attaccando la spina, attaccando, l'ha capito, perché va diretto, non ha il pulsante per la cena, ma quello si può sempre mettere, e c'è anche da 50 ampere comunque, che costa 28 euro, io adesso appena capita l'occasione me ne prendo la 50. Cavolo, che strano però, mi pare un bel strano che questa cosa gocchia così poco, tu. Cioè, se mi state dicendo che è così, che c'è la ventolina, che è valido, cioè non costa nulla in effetti. Beh, come il switch, c'è la sua ventolina, però attenzione, non è che è un alimentatore carino da vedere, è tutto in alluminio, nulla è crudo, diciamo, ecco. E poi davanti a questa specie di sportellino tu ci infili i cavi, c'ha il trimmerino laterale per regolare l'intensità da 13,8 in poi, capito, 13,6, vabbè, vanno bene. Ho capito, forse mi è capitato di vedere, però no, non di là, forse da internet, va giù compreso. È da alluminio che non c'ha strumenti, non c'ha nulla, e davanti alla facciata c'ha l'attacco per mettere i fili. Sì, sì, c'è proprio un piccolo sportellino dove tu lo sollevi, attacchi i cavi, positivo, negativo, di quanto radio vuoi, e poi nell'altro lì a destra c'è il positivo e negativo per la corrente. Sì, nulla è crudo, attenzione. Sì, no, ma già va bene, no, non mi interessa, vabbè, da rubiglio e lo tengo, perché poi peggio dell'ipotesi, come hai detto tu, gli metti un interruttore, perché no, se no gli vai una catturetta, ti rubo il rento e il buono interruttore lo fai mentre si tocca pure, volendo, ma alla fine non me ne frega niente, era solo per tenerlo, perché delle volte può succedere che ti serve, vai a comprarlo, qui non lo trovi, e ne hai comprato uno buono, e io sono diventato di buono, penso che cuocia, non si denama, ma più del doppio buono. Penso che sì, una cinquantina di ampere vai sulle, cioè, poi dipende sempre che cosa compri, però sei sempre sulle 100 euro, vai. Poi io sono sempre a parere, dipende di quelli stabilizzati, non switching. Switching si rivolge a bagare da pesce, ma secondo me gli stabilizzati sono migliori. Vai Antonios! Vabbè. Però, cavolo, stabilizzati, uno stabilizzato che goccia mi pare da 50 ampere a 30 ampere, io vuole quasi più di 150 euro, 200 euro, chi sia trasformatore. Però anche quelli là non vanno male, la verità. Ne abbiamo avuto uno di Rabroxel, vabbè, non è durato tanto tempo però. Ma chi ci mi pare il migliore a me questo alimentatore, la verità è. Chi dove era un po' carino strano era. Ma Anto, guarda, io ti dico una cosa, che queste alimentature che stanno vendendo i cinesi vanno bene. Perché tanto tu vai a comprare uno switching, sì, tu lo vedi con gli strumenti, lo puoi regolare. Diciamo che all'interno hanno la stessa scheda, ecco tutto qua, non è che sono diversi. Poi volendo te lo puoi fare anche carino tu, le fai una struttura tua, lo dico di vento e lo fai tu carino, volendo. Per qualità prezzo vanno bene. Qualità prezzo sì, vabbè, adesso potrà attendere. Chi ce l'ha già dato, là, cioè, che so cosa tende lo goccio, e poi li conservo gelosamente, ne aggiungo uno della GBC e uno del... Kert, una cosa del genere che lo... mamma mia, cioè anche quel trasformatore io li conservo gelosamente, perché... E poi ho preso questo qua che mi trovo bene, la verità. Sì, sì, vanno bene, vanno benissimo. Vai Antonio, forse si è allontanato, va. Aspetta, abbassa un po'. Ok. Ma la tornata, la Carrario, tanto. Una bomba. Andrà bene. Sì, già vanno bene, tu, perché poi possono servire per tutto, capito? Non solo per la radio, ma per fare altri tipi di lavoro. Cioè, un alimentatore così può sempre servire, dai. Ma chi è che vuole entrare? Avanti. A ver, sì, avanti. Ma c'era qualcuno che voleva entrare, perché altro? Sì, l'ho sentito. Avanti. Ho rilanciato Antonello, non ha più ripreso, forse si è allontanato. Arrivo pure a Pusodorra, arrivo. Vito vai, tu, Ma con l'antenna comunque se la sollevi di un paio di metri lavora ancora meglio. Lo so, però va la che murata così, faccio un po' di paura, faccio. È una staffa li devo buscare, perché non c'era la staffa nella confezione, dici che la vendere a pace. Sì, ma un palo da due metri, quell'altro ce lo butti dentro e si è a posto. È così. Paro un vino, vivo. Cosa ci vuole? Un paletto fino ci vuole. Perché no, quello grosso non lo puoi buoni, perché ci vuole la staffa. Buongiorno. Buongiorno a lei. Il campanello che c'è mio padre non vuole, sto scendendo giù un attimo, riprendo dopo, ok? C'è un break, mi sembra, fallo entrare, sentiamo dopo. Avanti il break. Ciao Antonio. Buongiorno a te. Adesso ha smesso, c'era Massimiliano e c'era l'amico da Porto Torres, c'era. Mi hanno fatto pure X, vabbè. Buona veda. E allora, che mi racconti di bello, Antu? E me, mi ronghi, bucato. E abbiamo fatto, ha già fatto un poco di festa, rimane, che c'era chi su, per far divertire anche bambini, auli, tutti i gas, ci siamo in salvezza. Abbiamo fatto un po' di festa in casa e via. Dolcetto scherzetto. Abbiamo fatto musica, ci ho fatto e via. E Marco ci divertiamo, visto che sta risarrato tutto, che risarriano in prigione, risarriano. Buongiorno. Pronto? Ciao Anto, scusate l'intromissione. Ciao Tonino, ciao anche Antonello, mi sembra aver sentito di sfuggita, io ho acceso adesso. Stavo dicendo, mi ha detto Gianni di quel tubo, non ne ho così fini Anto, quello che mi ha lavorato Gianni è in campagna, ma non è telescopico, è un tubo da 2 metri fine, l'ho usato per parificare il diporo, capito? E basta. Non ne ho così fini Anto, lì se staffi facciamo un bel lavoro, però devi staffare a muro e tutto, allora ti posso aiutare, ma tubi così fini non ne ho Anto. E rimane così, non mi interessa, barabà rimane così, perché sennò devo mettere le staffe su. Ma avevo pure una staffa, perché la staffa di chi s'antenna? Di chi s'antenna? Viene venduta a parte, viene venduta, però io sono entrato da sotto, già va bene così, non è un problema. Sì, Anto, ti avrei voluto aiutare, ma hai detto Gianni che ti serviva un tubo così fine, ma io così fine non ne uso, Anto, capito? Quel pezzo che mi ha dato Gianni l'ho usato per mantenere i bracci del dipolo, così va bene, ma se quello lo metti a montare un'antenna si spetta in due, capito? È troppo fine, poi non è neanche telescopico, è proprio un pezzo di tubo da 2 metri, gli ho detto a Gianni. Se decidi di mettere le staffe, Anto, non ce n'è problema, i tubi già ne ho, allora ti posso aiutare, però bisogna fare un lavoro fatto bene, capito? Dai, proseguite, io sono in ascolto sul canale 10, stavo spazzolando e ti ho sentito e invece mandato un messaggio, te l'ho detto qua. Ok, ciao Antonio, ciao Tonino, ci sentiamo, dai, me ne passo in ascolto sul 10, ciao. Ciao Claudio, buona diretta, ci sentiamo. KK, ok, claro, non c'è problema. Alla prossima, ciao. Ok. Va bene, è così. Meno male che bella giornata oggi, dai. Ne approfitto a fare qualcosa in più in campagna. E vai bene, a Romanco. No, non lo so, sono un po' stanchi siamo perché ieri abbiamo fatto vita a casa, ci siamo divertiti un po'. E quindi avevamo un stracche. Sì, avevo voluto fare un po' gammare, ma non lo gioco. No, io non la giocherei sci. Questo è il caso, riposo, perché domani devo fare il lumagno con le duria per Fogas. Beh, la signora mi ha detto che può farà. Ah, voi si fare mammare. Sta una bella passeggiata, vai, già fa bene. Io ho troppo cosa da fare qua in campagna, capito? Sono messo riuscito a fare una passeggiata. Ma proprio oggi non la giocare. Ah, dopo, dopo pranzo, tanto no, non mi incorre nessuno. Dopo pranzo mi giù di bene e metti il faro. Favorato. Cosa mi la frutta a me? Tanto Romagna ha già fatto, va via, a rimane, se metta a passare il forno si è avanzata, quindi se mangiamo chissà, la poi pigliamo di bene, sappiamo in che da giorno. E via. È un maro, passa il forno sempre buono, metto a dirlo. Metti il microondo un attimo, lo scaldi, sempre buona. Non credo, ma voi come te la posso io? Io non ne posso, non vedo niente la fata asciutta, baccare dai. Ui, ne ho mangiato una volta, era meglio non mangiarla, fazia l'acca, mo fazia. Ah, tinnante, no, la mia non è, non ne posso asciutta così, sennò da poi... ho fatto la bagna buona, tutte cose, e si mangia vero, cioè molta gente non la sa fare, non la sa fare. Un condimento però devi buonese, no, fate il chippo. Mia cognata ha fatto un basso forno al pesto, ma così buona. Non mangio, non mangiato così. Me l'hanno detto, me l'hanno detto, che dirà a voto? È un bel buonato. Fatto così tanto solo, quando la fai dopo avvisami che venga mangiare. Aiuto! Chi è questo basso basso? Non sei Tommaso Basso a te? Non lo so, non riesco a tirarlo fuori. C'è Santiago 2 qua, che è avanti? 2 o 3, dai! Avanti basso basso, come mai così basso? Chi sei? Hai detto, Ma... Benito, grande puffo. Benito, grande puffo, ciao Benito, sono qua in ascolto io. Ciao Benito, cavolo. Piazzati tutto, anche il nostro, qui ci sentiamo forte, cavolo diavolo, raga. Con l'antennino. Oh Benì, c'è Antonio Bombolo. Tu caglia, Cuore X. E boh, a tutti, vi saluti a Benito. Cappa, ma dove sei a Marazzucci, mi ha dato. Chissà cosa ammarazzosi è, comunque già lo sento un po', dai. Arrivo a tre e poi faccio chi c'è un fruscio che è un po' caretto, me lo tappa, ma già lo sento lo stesso, dai. Cappa, bene mi senti a me. Non ti ho capito questo passaggio. Cappa, senti lo sento tu stai arrivando qua. Io già lo sai che abito in campagna. Prima di San Camillo, zona San Camillo, quindi. Ma sei a Lima Delta? Dove? Ah, ecco perché sei così basso allora, cavolo. È un dove. Ma te la piazzi l'antenna, sì? Cappa. Io molte volte accendo la sera, quando non c'è nessuno spazio, non c'è nessuno, spiego tutto e buonanotte. Uso un Pioneer, oppure uso la 27, vediamo. Tutto qua. Ah, mi senti, grande puffo? Cappa, tu sei bassino, sei qua, bassino. Ma la cazzola sta modulando, Tony. Ottava. Pure no, che mi dice adesso tu arrivi forte. Oh, strano, ho già proprio un antennino. Ah, un antennino piccolo. Allora, cavolo, cioè, mi è arrivato cosa da buccio d'orra che lo sentivo forte. Cavolo, era più di 9.10 era. Ovviamente c'è un attimo piccolino c'ha proprio. Magari lui a me mi sente bene, ma a me non va da. Va bene, ma scusa, metto l'antenna, vedo che lo senti bene anche tu, tutto qua. Avanti, Benito. Non ti ho capito, non si va a correre lui, cavolo, che. No, io non sono FM. Perché? Aspetta un po', AM, io sono in AM. Vuoi provare in FM? Vieni, vuoi provare in FM? Aiuto, in FM, dai, arrivato. Senti, capa. Ehi, là, ci sei venito. Io ti sento più forte qua, prego. Marco lì. Antonio, fammi scala, vedo un pochettino. Antonio, ci sei? Antonio? Allora, dopo il processore, beh, cosa dici? Antonio è perito. Come sai, sempre Antonio piccolino. E chi io? Bella. Ma molto più forte ti arrivo lì a ottava? Sì, a te come ti arrivo? Come vi arrivo a voi in FM? Forte? Arrivi uguale come in FM, né più né meno. Voi arrivi 9,60. Non ammara. Insomma, il più piccolo sono io. Ma che tu arrivi 9,60? E che tu sì? Un po' prima di me. Caspita. Io sono Zolossa Camillo. E io sono tra i punti a salire nell'ottava. Benito. Io ti sento più forte qua in FM. Grazie, ti l'antenna grande, dai, così ci sentiamo la sera, raga. Beh, senza avrò di dubbio, metta sul tetto così hai più trasmissione, più ricezione. A me la notte sei sul tetto, l'antenna è che tipo una bomba, la mia gamba. Una bomba la boomerang, quella grande. Io devo alzarmi il palo, ce l'ho 6 metri, è una 5 ottave d'onda, però devo mettermi almeno 9 metri, mi devo aumentare. Ehi, più alto, più alto. Così acquisto qualche decibel più. Campa se l'ho aperto. Però c'ho un palazzo a fianco che non è molto alto, ma spunta poco a poco l'antenna, vuole che supera del tutto, anche radiale. C'ho solo 6 metri di palo, cavolo. Sto pensando che siccome ho messo al centro un alberello di limone piccolo, e a quanto pare sta andando male, troppa acqua, coso, lo tolgo, faccio un plinto e metto un traliccio a 15 metri e buonanotte. E il posto ne ho voglia, parecchio. E anche dei tiranti. E la luce sopra pure il vetro, non sa mai che qualche elicottero ma sei sicuri. No, no, io sono pian terreno, poi in campagna e posso ammettere anche il traliccio, non c'è problema. Antonio? La dimmi? Mi prenditela. Scappa, dai. Io adesso devo chiudere, devo, dai. Perché mi stanno... Cioè, devo fare cosa? Ce la sentiamo la prossima, prossimamente, dai. Mi ha fatto piacere questa chiacchierata oggi. Ce la risentiamo, dai. Perché devo fare delle cose in casa, devo fare. E da voi mi ci farò un po' caldo a rilassarmi. Dai, ci sentiamo alle prossimine. Ciao, ciao. Ciao a te, buon coretti, buon carica. Ci sentiamo e buona passeggiata. Avanti, vieni. Ciao, ciao, buon pranzo, buon tutto. Anche io sono rotto, sono rotto. Sono di casino. Ci sentiamo, ciao Benito. Ciao, aspetta, mi sfugge. Non me lo ricordo. Ho capito chi sei però. Ci sentiamo, buon pranzo, tutti e due. Ciao. Ciao, Tonino Sempson. Ok, buon pranzo, tutti e due. Ciao, ciao. Ciao, buon pranzo anche a te. Avanti, bene. Avanti, bene. Eia. Ciao.